La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mamma, chissà se valeva la pena fare tanta strada e arrivare qua. La gente è la solita e non cambia scena, la stessa che ho lasciato tanto tempo fa. Hanno fame di soldi, hanno fame d'amore e corrono 100 all'ora. I loro figli non somigliano a niente, l'adolescenza subito li divora. Questa è la storia di Alfonso Carlino, un geometra finito in carcere e dal quale è uscito prima virtualmente attraverso il teatro e poi veramente, avendo scontato la pena. Ma del teatro non si è scordato Alfonso, perché in cella è stata l'ancora a cui aggrapparsi per farcela, e ce l'ha fatta. Ora è un uomo nuovo, ha ritrovato la famiglia che per anni aveva deciso di non vedere e ha cominciato a lavorare e recitare. Tutto questo grazie al progetto Opera Liquida. Questa storia inizia più o meno così. Indietro io ci tornerei. E se potessi cominciare da capo, quello che ho fatto non lo rifarei. Vabbè, come tutti i bambini, è un sogno che si realizza, il mio, soprattutto considerando una metafora che io amo tantissimo, che non so chi l'abbia detta, però l'ho fatta mia: spesso nelle peggiori situazioni nascono le opportunità migliori. E quindi questa opportunità mi è stata presentata in questa esperienza di detenzione, cominciata nel 2002 e terminata nel 2015. Un'esperienza la quale mi ha segnato, evidentemente, ma mi ha dato questa opportunità di scegliere. E quindi in un terreno come questo, quello della detenzione e di tutti i suoi derivati, ho avuto questa possibilità di scegliere. La casa di reclusione Milano Opera mi ha permesso di incontrare delle persone, di inseguire un sogno che si è realizzato. Tu, quando sei entrato in carcere, entravi per la prima volta in carcere o avevi già avuto esperienze di detenzione? È stata la prima volta. Dovrei anche evidenziare un aspetto che io considero nel 2016 un aspetto che va preso seriamente in considerazione. Perché dico questo? Perché la mia situazione dal punto di vista proprio sociale è una... come dire, un pagare un atto fatto nel passato a distanza di anni. Tu sei stato fermato anni prima. Certo, poi io ho avanti il procedimento penale per 13 anni. Per 13 anni, e in quei 13 anni ho costruito la mia vita. E 13 anni dopo mi si è presentato il conto, oso dire. Ma non lo dico in forma polemica, proprio dal punto di vista del ragionamento. Ecco, dopo 13 anni diciamo una persona cambia. Un ragazzino, avevi sbagliato. Esatto, nel come si dice a Milano, si è balordi, ma si ha anche la possibilità di comunque in quel terreno fare delle scelte, che dico sempre anche ai ragazzi, perché con Opera Liquida noi abbiamo anche un progetto ambizioso che da 2 anni... persegue questa strada all'interno delle scuole che ci chiamano per, insomma, raccontare della nostra esperienza del teatro all'interno di una casa di reclusione, e soprattutto per far fare una riflessione giusta, esempio come quella che è capitata a me, una storia di questo genere. Insomma, da ragazzi non si pensa a cosa si va incontro anche a queste conseguenze. Tu di fatto a un certo punto avevi impostato tutta la tua vita, ti sei ritrovato al carcere di Opera. Esatto. Una cosa terrificante, trauma totale, però... Sì, passando attraverso Voghera, per essere proprio corretti dal punto di vista dei dettagli. Infatti la mia prima volta in carcere ha voluto dire lasciare 2 bambine di 4 anni, una compagna e una realtà in quel momento dura, perché vivevo in un altro stato dove ho impostato le basi della mia famiglia, il lavoro, insomma, a un certo punto ho perso tutto, chiaramente riconoscendomi delle responsabilità da ventenne, però questo è successo a 33 anni. Quindi sono entrato in carcere con consapevolezza e questa situazione, per raccontare la mia prima volta in carcere, è stata 15 giorni di isolamento, perché una reazione a uno stato normale delle cose, vedersi aprire le porte del carcere a distanza di 13 anni, ecco, è stato un trauma che per me è non sopportabile. E infatti ricordo proprio quel primo giorno che mi portò a essere scartato, tra gli scartati proprio. Passare 15 giorni di isolamento in una cella significa confrontarsi con se stessi e con un muro e con uno specchietto di plastica. Ecco, questo è quanto. Eppure tu ti sei aggrappato, cioè insomma, quando hai visto arrivare questa barchetta del teatro, ti ci sei buttato dentro. Com'è andata? Assolutamente. Quindi, per non saltare nessuna fase di questa storia, perché come il tuo programma dice, la prima volta, ecco, dal 2002 è stato un susseguirsi di prime volte. Quindi il trasferimento nella casa di reclusione Milano Opera, i 9 anni di condanna che cominciavano a scendere e soprattutto aver fatto una scelta, io dico coraggiosa, che a distanza di 13 anni da quel giorno ha pagato, cioè staccare definitivamente quella spina che collegava il mio sentire con l'esterno. Alla fine della mia condanna, provare a riaccenderla. E qual è stato il brano, comunque il testo che hai recitato come prima volta? Quella lettera che non ho mai scritto a loro, nel senso che in quella condizione di restrizione, le 3 ore alla settimana di teatro mi permettevano di esprimere quella che era la mia reale condizione, no? Grazie a quell'idea di assenza di giudizio in quelle 3 ore, perché poi il carcere ha una vita sua, dove il pregiudizio io lo considero trasversale. C'è all'esterno ma anche all'interno, per questo si combatte una battaglia su più fronti. Il pregiudizio delle persone detenute è enorme, come enorme è il pregiudizio delle persone libere nei confronti delle stesse. E quindi quella lettera mai scritta, che oggi è diventato anche un testo di una nostra performance teatrale, è quella lettera che io ho mandato il giorno del 18° compleanno alle mie figlie su Facebook, praticamente. Quello era il mio obiettivo, l'ho sempre detto. Già ricevere una risposta di lettura per me è stato aprire la finestra. Dicono che sei solo quando accanto non hai nessuno. Questo lo provato e superato. Non è stare al mondo senza ripari e aver paura quando la tempesta avanza. A questo sono sopravvissuto. Sei solo quando non hai nessuno dentro, nella mente e nello stomaco. Lo sto capendo adesso, sicuro che se non vi avessi sentite dentro, sarei morto. Queste dunque le prime parole che Alfonso ha scritto dal carcere alle sue figlie che non vedeva da anni. La storia va avanti tra poco, state con noi. La prima volta. Radio 24 è a Lucca in occasione del Lucca Comics. Per chi non potrà essere lì con noi, il 1° novembre, giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog, alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, vai su radio24.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di Alfonso Carlino è la storia di un uomo che viene incarcerato, sconta la pena e mentre è in carcere scopre il teatro e da lì rinasce una nuova vita che riesce ad affrancarsi dal passato. Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha capito. Io sono un ragazzo di provincia che nell'85 si è diplomato con uno studio tecnico, quindi sono un geometra fondamentalmente. Il terzo anno di geometra, è curiosa la cosa, volevo fare un liceo perché ero attratto da quelle che sono le scienze umanistiche, non so come chiamarle, definirle. Diciamo, io ti ringrazio del complimento, alcuni il fatto di essere forbito lo considerano che sono uno che parla troppo, perché a me piace il parlare. Perché per tanti motivi, perché il mondo degli esseri umani è la cosa fondamentale della vita, è la relazione, quindi per relazionarci bisogna parlare, non bisogna solo usare le mani, lo dice una giornalista. quindi l'importanza del significato delle parole è uno studio che ho fatto io personale per un'esperienza all'estero di 10 anni di lavoro, dove ho detto Sara e Laura sono nate a Budapest essendo italiane e quindi sono curioso delle cose belle e chiaramente, come tutte le persone, i miei difetti e cerco di correggerli, e l'ho fatto anche in queste situazioni. La mia storia è questa. Ti posso chiedere perché sei stato arrestato, cioè perché sei finito in carcere? Se non vuoi rispondere, puoi non rispondere, non c'è problema. Guarda, posso solamente dirti questo: a 20 anni una persona ha la voglia di conoscere la vita. Negli anni 90 io lavoravo e avevo quelle condizioni che da provinciale una persona ha, quindi volere qualcosa di più, e questo volere qualcosa di più significava, vivendo in una famiglia onesta, trovare le condizioni per avere il qualcosa di più, quindi il denaro. E quindi ho fatto delle cose da ragazzo che non ha creato mai nessun problema alle persone fisicamente. Okay. Però questo lo posso dire, io ho creato dei problemi a delle banche e paradossalmente io adesso ho un lavoro dignitoso e lavoro con le banche. Quindi ecco, anche questo è un altro aspetto del mio passato che si ripercuote, no? È un percorso... Sì, è un cerchio che si chiude, esatto, e con tribunali. Lavoro in una società RD che si occupa di ripianificazione debitoria, quindi forse mi verrebbe da fare una battuta, potrei ripianificare i debiti di una banca del lontano 90 che avevo mandato in fallimento, per dire, no? Per delle ragazzate, è chiaro, non sono cose che si devono fare, ma si devono comunque, non è moralismo il mio, certo. Ecco, questo è, non ho fatto niente di così trascendentale, comunque vedersi erogata a 33 anni una condanna di anni 9, mesi 11 e giorni 25, quindi, che ho scontato dignitosamente, usufruendo di tutte le condizioni che l'ordinamento penitenziario ti mette, quindi misure alternative, e non ho mai abbandonato questo viaggio con Opera Liquida. Non è un perbenismo il mio, veramente noi abbiamo realizzato un sogno, perché dal 2008 non avevamo uno spazio. Nel 2010, se non erro, la nostra direttrice artistica mi correggerà appena dopo l'intervista, siamo riusciti ad avere il teatro stabile ad Opera, e adesso abbiamo uno spazio tutto nostro a Lidero Scalo, dove grazie all'inaugurazione che abbiamo fatto martedì 27 scorso, proporremo due spettacoli invitando delle compagnie in questo spazio, e per finire con gli ultimi due appuntamenti basta andare sul sito Opera Liquida per informarsi, non è pubblicità questa, è semplicemente un'indicazione per darvi un'informazione, assistere ad un'esperienza secondo me importante, un avvenimento teatrale di bellezza dentro un carcere, è possibile. Quando andrai in scena, quando è la prima tua del tuo spettacolo? A novembre, se non erro il 24 o il 27, comunque informatevi sul sito, mi tirerà le orecchie Ivana Trettel, però undicesimo comandamento, uccidi chi non ti ama, che è la nostra ultima produzione. Il mondo del carcere è un mondo a molti oscuro. Spesso chi guarda da fuori carica quel luogo di pregiudizi. Più spesso ci si dimentica che quella è una struttura che dovrebbe recuperare le persone. Ma ormai, anche su questo, sembra abbiamo abbandonato le speranze. Ancora Carlino. Per come uno si pone nel capire e chiedere le cose non vuol dire avere un pregiudizio, è semplicemente non conoscenza. Il carcere, ricordo a tutti, è un'istituzione creata dalla società. Più centrale è, più considerazione si ha dal punto di vista geografico di quel posto. Ricordo non da poco una polemica sulla lo spostamento del carcere di San Vittore, allontanarlo dalla città. Ecco, secondo me il pregiudizio si abbatte già facendo presente che esiste. Poi l'opera del volontariato è fondamentale, ma non per criticare le istituzioni, proprio perché è una cosa fisiologica, non si ha il modo e la maniera di poter creare quelle condizioni. Noi abbiamo come Opera Liquida il vanto di essere in Lombardia l'unica, immagino, non vorrei dire, anzi sarei fiero di sbagliarmi, e quindi sono a conoscenza di altre realtà come la nostra, che permette l'incontro della cittadinanza all'interno del carcere per assistere in un teatro bellissimo di 340 posti le performance nostre e di altre compagnie, grazie all'organizzazione quest'anno per il quinto anno consecutivo di un festival con 4 date. Io proprio ieri mattina ero a fare le prove con i ragazzi all'interno del laboratorio. Martedì saremo alla Bocconi a fare una performance di questa nostra produzione, Undicesimo Comandamento, Uccidi chi non ti ama, proprio perché è stato oggetto di studio per gli investimenti in merito a queste attività trattamentali che hanno portato me, che le ho cercate, ad ottenere quello che vi ho detto prima. E sicuramente possono dare una forte mano a chi potrà scegliere di farle, perché siamo sempre lì. Una persona, quando ha scontato definitivamente la sua condanna, che non è la pena, sono importanti anche questi due distinguo per l'articolo 27 della Costituzione, no? Perché lo dico io. Il reinserimento è la cosa fondamentale, non la rieducazione. Molto difficile rieducare un adulto. Purtroppo anche le istituzioni lo sanno riguardo a questo. Però mi piacerebbe ragionare di queste cose e accolgo anche le possibilità di intervenire in merito a questo. Ma è semplice, rieducare è un'altra cosa, reinserire è la cosa fondamentale. Poi è importante la volontà, però per chi ha la volontà e non ha le condizioni, perdersi, come dici tu, è un attimo... La prima volta termina qua. Quella che state per sentire è Canta Canta, una canzone di De Gregori dedicata ai detenuti. Ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 23 circa. Pagina Facebook, Radio 24, trattino La Prima Volta. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino, Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia rimasta di fare l'amore. Come un cane nella pioggia, quest'uomo se ne va, voglia di piangere poco davanti a tutta questa libertà. Certo comprerà un autocarro per girare la Francia, il mondo intero, come quel suo fratello camionista, contento del suo lavoro, come un cane nella pioggia felice per le strade di quasi Natale, freddo del tanto che basta, nessuno da salutare. Ordina un caffè corretto, tossisce discreto dentro un palmo di mano. Nessuno lo nota, gli dicono grazie. È uscito ieri, è già lontano. tossisce discreto dentro un palmo di mano, nessuno lo nota, gli dicono grazie. È uscito ieri, è già lontano. Thank you.